giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sequestrati nel porto di Trieste 30 kg di oppio nascosti all'interno di involucri plastificati inseriti in mattoni refrattari, oggetti in resina costruiti su misura per contenere lo stupefacente. Sarebbero solo logiche di profitto, secondo i sindacati dei lavoratori del centro di smistamento Amazon di Fiume Veneto, a giustificare le modifiche agli orari di lavoro imposte unilateralmente dal colosso internazionale della distribuzione dall'8 luglio scorso. Rialza la testa l'inflazione a Udine dopo due mesi in cui i prezzi erano in calo. A Trieste prezzi leggermente diminuiti rispetto al mese precedente. Il contributo dell'agricoltura alla produzione di energia rinnovabile elettrica, al centro del rapporto dell'Osservatorio sulle agroenergie di Confagricoltura, presentato questa mattina a Tapogliano. Il mercato del mattone in Friuli Venezia Giulia nei primi sei mesi del 2025 va bene sia la domanda di compravendite sia quella di affitto. Il Comitato Salute Pubblica di Gorizia esprime diverse perplessità relative alle strutture ospedaliere. Prima preoccupazione, l'organizzazione della cardiologia. Inaugurata a Trieste, negli spazi delle storiche distillerie Stock, la nuova sede della compagnia assicurativa Generatel. Il palazzo, che ospita 192 postazioni, è stato riqualificato mantenendo l'estetica a mattoni rossi di inizio Novecento. A Gorizia è illustrato lo stato dei lavori per il recupero del Parco Basaglia. Le 12:31 minuti, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Bearz e Maria Spezia, che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia della TGR di mercoledì 16 luglio. In apertura la cronaca, perché il personale dell'Agenzia delle Dogane, dei Monopoli e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno sequestrato nel porto di Trieste 30 kg di oppio in pasta nascosti all'interno di involucri plastificati che a loro volta erano inseriti in mattoni refrattari e in oggetti in resina costruiti all'occorrenza su misura proprio per contenere la sostanza stupefacente. In particolare le fiamme gialle, nel corso di un controllo effettuato nei confronti di un tir turco proveniente dal porto di Mersin con una spedizione di merce partita dall'Iraq, precedentemente individuato nella fase dell'analisi di rischio quotidianamente svolte, hanno passato in rassegna l'intero carico, trovando quattro scatoloni, il cui contenuto, costituito da mattoni e oggetti in ceramica, una volta assemblato, avrebbe riprodotto un braciere decorativo. Funzionari e finanzieri, insospettiti dall'insolito trasporto, hanno così ispezionato i mattoni, trovando al loro interno diversi panetti di oppio. In altri sei scatoloni sono stati poi trovati numerosi oggetti in resina che a loro volta nascondevano lo stupefacente. Sono in corso accertamenti anche in altri stati europei per individuare i soggetti coinvolti nell'illecito trasporto, che è affidato a un'azienda di spedizioni internazionali irachena, era destinato per le operazioni doganali a una società di logistica nei Paesi Bassi, prima di essere poi inviata a nomi di fantasia a residenti in Germania e in Gran Bretagna. Sarebbero solo logiche di profitto, almeno secondo i sindacati dei lavoratori del centro di smistamento Amazon di Fiume Veneto, a giustificare le modifiche agli orari di lavoro imposte unilateralmente dal colosso internazionale della distribuzione dall'8 luglio scorso. La media consegna pacco si aggira sui 2-3 minuti, da 120-130 colli siamo saliti alcune rotte, circa 180, alcuni anche 220. Le modifiche dell'orario di lavoro adottate a partire dall'8 luglio al centro di smistamento Amazon di Fiume Veneto comportano, secondo i sindacati, un aumento del carico per i lavoratori, circa 300 in tutto tra magazzinieri e corrieri, quasi la metà donne. Una variazione unilaterale dettata solo da logiche di profitto, denuncia la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti della CGL. Cristiano Danelon. Con il nuovo cambio orario e quindi la possibilità di Amazon di poter caricare più pacchi ai lavoratori, succede che le rotte sono più cariche e quindi i lavoratori escono con più consegne rispetto a quello che succedeva prima. Tra l'altro il traslamento avanti delle ore comporta anche un'altra situazione, che escono in momenti di maggior traffico che comportano comunque della pericolosità. L'altra questione che abbiamo in piedi è che comunque non sappiamo quanto dureranno i nuovi orari e quindi con la stagione invernale si correrà con le ore più buie, quindi in situazioni più problematiche e quindi rischio maggiore per quei tipi di lavoratori. L'associazione di categoria Assoespressi parla di uno slittamento massimo di 40 minuti e di una variazione comunicata con 15 giorni di preavviso. Ancora Danelon. I lavoratori sono stati avvisati da una comunicazione unilaterale da parte dell'azienda, quindi senza discutere delle problematiche che possono portare, quindi i nuovi orari a livello familiare. La nostra preoccupazione è che è vero che Amazon aumenterà i volumi, ma lo farà con lo stesso numero di persone che ha prima, e quindi i lavoratori saranno costretti a produrre di più. Oggi quel sito ha il 98% di produttività, è uno tra i migliori 10 in Italia. Fiume Veneto, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il contributo dell'agricoltura alla produzione di energia rinnovabile elettrica in Italia si attesta all'11%, con un traguardo raggiunto con 48.000 impianti. Si tratta di un supporto che presenta margini di crescita, come risulta dal rapporto dell'Osservatorio sulle agroenergie di Confagricoltura, che è stato presentato questa mattina nel corso di un incontro che si è tenuto a Villa Pace, a Tapogliano. Il Friuli Venezia Giulia ha già superato gli obiettivi stabiliti sia per il 2024 che per il 2025 di potenza aggiuntiva installata da impianti ad energia rinnovabile. 1.890 MW nel 2024, circa 230 in più rispetto al target dell'anno passato e 62 oltre la quota minima fissata per quest'anno. Come emerge dal primo rapporto dell'Osservatorio sulle agroenergie di Confagricoltura, realizzato col sostegno di Enel, il Friuli Venezia Giulia è stata la quarta regione per aumento di potenza connessa in Italia rispetto al 2023, più 52%, dietro Lazio, Molise e Sardegna. La parte del Leone la fa il fotovoltaico con il 64% dell'energia da rinnovabili, stabili le quote di idroelettrico e bioenergie. Nel settore agricolo in Italia il 30% degli impianti è installato a terra, il 69% sui tetti e l'1% è agrivoltaico, un tipo di impianti che permette cioè l'attività primaria al di sotto dei pannelli. In Friuli Venezia Giulia è minore la quota di installazione a terra, il 21% contro il 79% sui tetti. Un 21% che si traduce a fine 2023 in 334 ettari, lo 0,1% della superficie agricola totale. Donato Rotundo, direttore area sviluppo sostenibile e innovazione di Confagricoltura Nazionale. Oggi il percorso dell'agrivoltaico permette di equilibrare sia la produzione agricola che lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili con il fotovoltaico. L'importante è avere equilibrio. Sull'agrivoltaico i primi effetti degli incentivi fino al 40% per l'installazione legati al PNRR si vedranno quest'anno, ma bisogna fare in fretta e per tanti agricoltori è ancora un terreno inesplorato. Philip Turn Valsassina, presidente di Confagricoltura Udine. I contributi ci impegnano ad avere praticamente per la fine dell'anno prossimo gli impianti installati. Dall'altro è una tecnologia veramente nuova, perciò dobbiamo capire quali sono le colture. Spesso sento parlare degli asparagi, della vite, però l'esperienza ci manca per capire quanto questo qua inciderà poi sulla produzione agricola o elettrica. Tapogliano, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il mercato immobiliare del Friuli Venezia Giulia mostra una performance positiva nel primo semestre del 2025, sia nel comparto delle compravendite che in quello delle locazioni. La domanda si è infatti ampliata in entrambi i settori, registrando un più 14,6% per la vendita e un più 6,1% per gli affitti. L'offerta mostra una pressoché totale stabilità per le case in vendita, più 0,2%, mentre si accumula per gli immobili proposti in locazione, più 4,2%. Ad evidenziarlo sono i dati del nuovo osservatorio semestrale sul mercato residenziale del Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda i prezzi si nota una salita in ambedue i comparti. Le case in vendita hanno registrato un rialzo del 3,6% da inizio anno, mentre quelle in affitto sono aumentate del 4,2% nello stesso periodo. Per comprare casa in regione vengono richiesti a fine giugno 1.684 euro di media, mentre per affittarla bisogna mettere in conto mediamente 10,5 euro al metro quadro. Resi noti poco fa gli ultimi dati sull'andamento dei prezzi al consumo e sulla conseguente inflazione per Trieste e per Udine. Rialza la testa l'inflazione a Udine. Dopo due mesi in cui i prezzi erano stati mediamente in calo, la variazione segnalata dall'ufficio statistica del comune parla di un aumento medio dello 0,6% su base mensile e del 2,1% su base annuale. Analizzando le singole voci di spesa, fa segnare l'aumento più marcato quella dei servizi ricettivi e di ristorazione, cresciuti del 4,7% su base mensile e del 7% su base annuale, e ancor più in particolare i servizi di alloggio in un mese, secondo i dati, sono aumentati del 10,2% su base mensile e in un anno dell'8,9%. Più modesta la variazione a Trieste, dove i prezzi sono cresciuti in media dello 0,2% in un mese e dell'1,9% in un anno. E qui l'aumento medio dei servizi ricettivi e di ristorazione si ferma all'1,6% su base tendenziale e al 5,1% su base congiunturale. Quanto alla voce prodotti alimentari e bevande analcoliche, che è il classico carrello della spesa quotidiana, Udine fa segnare un più 0,2% su base mensile e un più 4% su base annuale. Pure in questo caso Trieste va un po' meglio, perché, sempre secondo l'ufficio statistica del comune, i prezzi rispetto al mese precedente sono leggermente diminuiti. Gli aumenti su base annuale per questa voce arrivano al 4% anche nel capoluogo regionale. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Comitato Salute Pubblica di Gorizia ha diffuso un comunicato stampa in cui esprime diversi punti di perplessità relativi alle strutture ospedaliere locali. Prima preoccupazione, l'organizzazione della cardiologia. È la preoccupazione per la mancanza di punti fermi sulla cardiologia ospedaliera locale, una delle molle che hanno spinto il Comitato Salute Pubblica di Gorizia a diramare un comunicato stampa articolato in 5 temi considerati cardine per la sanità esontina. Non ancora nota in via ufficiale, infatti, la natura della commissione che dovrebbe organizzare l'unità di terapia intensiva cardiologica, spiega il rappresentante del Comitato Salute Pubblica di Gorizia, Adelino Adami. Noi non vogliamo anticipare le conclusioni della commissione, ma vogliamo almeno sapere da chi è composta e come lavora. Un'altra questione riguarda poi gli investimenti destinati al pronto soccorso goriziano e all'ospedale Monfalconese di San Polo. Un progetto ASUGI del 2023 prevede un investimento di quasi 5 milioni di euro per il pronto soccorso goriziano. Sull'altro piatto della bilancia, la recente conferma del Consiglio regionale per un intervento di rivisitazione edile, impiantistica e antisismica di 180 milioni. Vorremmo che fosse adottata per le due sedi la stessa unità di misura e la stessa modalità di intervento. Altra tematica è quella delle liste d'attesa per le visite dermatologiche. La struttura ospedaliera goriziana è infatti passata da complessa a semplice, con una conseguente riduzione di personale, investimenti e l'allungamento dei tempi di accesso alle cure. Se noi riduciamo le strutture, riduciamo gli investimenti e riduciamo il personale, non possiamo pensare che le liste d'attesa si aggiustino miracolosamente da sole. Tutte problematiche per le quali i consiglieri comunali di Gorizia hanno chiesto un incontro al presidente della regione Massimiliano Fedriga, senza però avere finora ricevuto risposta. E alle 12.43 minuti apriamo la pagina del meteo. Il cielo è da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa, coperto in montagna. Queste le temperature registrate poco fa. A Trieste 27 gradi e 5 decimi, il mare è poco mosso con temperature di 25 gradi e mezzo. A Gorizia 28 gradi, a Pordenone 26 gradi e mezzo, a Udine 26. A Tolmezzo 21 gradi, a Sappada 19 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 18 gradi e mezzo, 18 gradi a Piancavallo, 16 a Tarvisio. Sul Monte Zoncolan 12 gradi, sul Monte Lussari 9 gradi e mezzo. Passando la costa, a Grado 28 gradi, la temperatura del mare di 26, mentre a Lignano è di 26 gradi e mezzo, con temperatura del mare di 26 gradi e 5 decimi. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per le prossime ore: cielo in genere variabile con nuvolosità più consistente nel Tarvisiano, saranno possibili rovesci sparsi, intermittenti e qualche temporale locale. Sulla costa e nelle zone orientali soffierà buona moderata, specie a Trieste. Per domani in pianure sulla costa cielo sereno o al più poco nuvoloso, nella zona montana variabile. Sulla costa di notte, nelle prime ore del mattino, soffierà bora anche moderata a Trieste, poi dal pomeriggio i venti ruoteranno a brezza. È in corso all'aeroporto di Rocchi dei Regionari l'assemblea della FILT CGL Friuli Venezia Giulia per l'illustrazione dell'ipotesi dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale gestori aeroportuali, in preparazione al referendum che si terrà il prossimo 22 22-23 luglio per la conseguente validazione. Ai lavori stanno partecipando per la FILT Friuli Venezia Giulia i segretari regionali Sasha Kulev, Roberta Padovan e Natale Colombo, Fabrizio Cuscito e Sara Di Marco per la FILT CGIL Nazionale, che hanno anche illustrato l'intero documento. Ampia la partecipazione dei lavoratori interessati che stanno portando il proprio contributo ai lavori esprimendo soddisfazione per l'ipotesi sottoscritta. A Gorizia stamani è stato illustrato lo stato dei lavori per il recupero del Parco Basaglia. Oggi la consegna dei lavori del primo lotto funzionale della rigenerazione urbana del Parco Basaglia, il comprensorio dell'ex ospedale psichiatrico provinciale di Gorizia, che è il quinto parco per dimensione della città. Nel 2018 era stato siglato un primo protocollo di intesa tra la Regione, l'ERPA e l'azienda per l'assistenza sanitaria numero 2 Bassa Friulana Isontina, con l'obiettivo di procedere a interventi di recupero e di valorizzazione. Successivamente, nel 2022, era stato siglato un secondo protocollo di intesa che sostituiva, integrandolo e rettificandolo, il protocollo precedente. Il primo lotto funzionale prevede la progettazione e il recupero delle aree verdi del parco e del sistema dei percorsi e delle infrastrutture. Il quadro economico dell'investimento è pari a circa 2 milioni di euro. Nell'ottobre del 2024, con l'autorizzazione da parte del Ministero della Difesa, il Servizio Patrimonio ha dato inizio alle indagini di bonifica sistematica terrestre per verificare a scopo preventivo la presenza di ordigni esplosivi residuati bellici. Le indagini hanno evidenziato già dal primo metro di profondità la presenza di interferenze ferromagnetiche diffuse, condizione tecnica che comporta cecità strumentale degli strati posti al di sotto. Pertanto il Servizio Patrimonio ha aggiornato parte del progetto per consentire la realizzazione dei lavori in sicurezza, prevedendo sia la modifica di alcune lavorazioni sia lo stralcio di alcune aree per successivi approfondimenti. Le attività di verifica bellica si sono concluse nella primavera del 2025. Inoltre, secondo segnalazioni di Legambiente, alcune aree prative del parco storico verso via Filzi ospitano varie specie botaniche tipiche dei prati stabili, tra cui orchidee piramidali e orchidee purpuree. Il Servizio Patrimonio ha quindi valutato di stralciare le aree indicate da Legambiente e di rimandare ulteriori valutazioni al tavolo tecnico. Gorizia, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. L'avvio delle opere di realizzazione della ciclovia Trieste-Lignano-Venezia è stato al centro di un incontro a Tor Viscosa tra la Regione e alcuni dei sindaci amministratori dei comuni interessati dal passaggio dell'asse ciclabile. Nell'aggiornare sulle tempistiche, l'assessore regionale a infrastrutture e territorio Cristina Amirante ha riferito che, dopo rallentamenti di circa un anno, dovuti in parte anche al complesso confronto con l'autorità di bacino, è stata bandita la gara per la realizzazione dei lavori su tre lotti, il cui inizio è fissato per il 18 agosto, mentre la consegna deve rispettare i termini del PNRR, ovvero la fine di giugno 2026. L'opera ha un costo di 33 milioni di euro per 60 chilometri di ciclovia, suddivisi in 4 lotti, di cui 3 sottoposti già a procedura di gara con termini che scadono oggi, mentre un altro lotto andrà a procedura negoziata nei prossimi giorni. Al momento gli uffici regionali, in collaborazione con i comuni, stanno lavorando agli espropri con l'acquisizione di centinaia di mappali. Inaugurata a Trieste, negli spazi delle storiche distillerie Stock, la nuova sede della compagnia assicurativa Genertel. Il palazzo, che è stato riqualificato ma ha mantenuto l'estetica a tipici mattoni rossi di inizio Novecento, ospita 192 postazioni. Abbiamo sentito in merito l'amministratore delegato di Genertel, Giacomo Trovato. La nuova sede di Genertel è molto più di un semplice spazio di lavoro. È un ambiente pensato per le persone, per favorirne l'ispirazione, per promuovere la connessione, la collaborazione, per ispirare anche l'eccellenza. Questo ufficio, gli spazi sono molto aperti e luminosi, ci sono aree di collaborazione flessibili, di incontro, e ogni dettaglio è stato pensato per dare significato al lavoro in ufficio e quindi per restituire un senso all'integrazione, al connubio tra il lavoro in remoto e il lavoro in ufficio. Peraltro questo ingresso in questa sede ha anche un valore simbolico, perché ad essere rinnovate non sono soltanto le mura, quello che vogliamo rinnovare è anche il nostro impegno nei confronti dell'innovazione, nei confronti dei clienti, nei confronti dell'eccellenza. e poter condividere questo momento con le colleghe, con i colleghi, con le istituzioni locali qui presenti è per me un motivo di grande gioia e di grandissimo orgoglio. I dipendenti sono già qua all'interno di questo modello di lavoro che Generali ha sviluppato, che si chiama Red Working, che integra il lavoro in remoto con il lavoro in ufficio, e quindi i dipendenti non sono 5 giorni su 5 in ufficio, ma quando sono qua chiaramente vogliamo che questo lavoro sia particolarmente significativo e che favorisca davvero la collaborazione tra le persone. Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Il pianista e compositore statunitense Herbie Hancock, di cui in sottofondo state ascoltando il brano intitolato Dolphin Dance, il protagonista della quinta giornata della rassegna internazionale Woodin and Jazz. L'artista che ha attraversato oltre 6 decenni di musica reinventando ogni volta il proprio linguaggio tra jazz, funk, elettronica e spiritualità, è noto per il suo approccio visionario al pianoforte e alla composizione, come anche per la sua collaborazione con il trombettista Miles Davis. Appuntamento a Udine, al Castello, alle 21.30. L'evento sarà preceduto dall'incontro con il musicologo e direttore artistico del Torino Jazz Festival, Stefano Zenni, che presenterà l'edizione aggiornata della sua storia del jazz in Corte Morpurgo alle 18.30. Il regista russo Alexander Sokurov, già premiato con il Leone d'Oro a Venezia nel 2011, sarà protagonista oggi dell'evento L'intelligenza dei confini, un appuntamento che è inserito nel cartellone di Go 2025, Nova Gorizia, capitale europea della cultura. L'iniziativa, che spazierà nell'universo poetico del regista, noto per titoli quali Arca russa e Faust, sarà avviata da una lettura dello scrittore Claudio Magris a Gorizia, al Teatro Verdi, alle 21. A seguire Sokurov dialogherà con Aliona Shumakova, selezionatrice di film russi e dell'est per la Mostra del Cinema di Venezia, e con Elisabetta Sgarbi, ideatrice dell'evento. La serata sarà quindi conclusa dalla proiezione restaurata del film di Sokurov del 1988 dal titolo Il sacrificio serale e del film Elegia d'Orogi. Secondo appuntamento per iniziativa L'immagine irraggiungibile di Carlo Michael Stetter, il cinema, che oggi proporrà una giornata di proiezioni a ingresso libero ispirate alla figura del filosofo goriziano e che si terrà a Trieste al cinema Ariston dalle 16. Tra le proiezioni quella del film intitolato Con il mare negli occhi di Paolo Magris, ispirato appunto alla figura di Michael Stetter, prevista alle 18. In chiusura di serata alle 21 sarà presentato un estratto di 3 minuti dal film Nel tuo occhio di Massimiliano Finazzer Flori. Lo scrittore e drammaturgo Paolo Patui sarà protagonista della lettura teatrale Bar Sport, narrazione ricca di uomini in bilico tra lo sport e altre attività, da Paolo Rossi calciatore e attore a Mohamed Ali pugile attivista. L'appuntamento, incluso nella rassegna Attraversamenti, passeggiate, libri, parole, è in programma a Trepogrande a Villa Bellavitis in via Nazareth alle 20.30. Usa solo fotografie per raffigurare il percorso migratorio il film Abito di confini del regista e artista inglese Ofer Thompson, che ha scelto di vivere nelle montagne friulane per ispirare una ricerca artistica nata circa 3 anni fa. In quel periodo infatti il regista ha iniziato a studiare i movimenti migratori nella frontiera montana tra l'Italia e la Francia per produrre materiale artistico e riflettere su come e quando si diventa migranti e sugli elementi che condizionano l'uso di questo termine. Il film sarà proiettato a Moggio Udinese al Centro Polifunzionale Treu alle 21. Altra iniziativa, sempre in tema di accoglienza, è quella dello spettacolo multisensoriale Residenza Temporanea alla Terra Promessa, inclusa nel programma di Go 2025, che attraverso suoni, profumi, narrazione e movimento esplora il tema delle migrazioni, della memoria e del patrimonio culturale. L'esperienza si svolge in gruppi di 6 persone, con partenza ogni 30 minuti, dalle 18 fino alle 20.30. A Nova Gorizia, in località Moncorona, all'Arthur's Hutu Space, una delle tappe avverrà lungo l'Isonzo, consigliati abbigliamento e calzature comodi. Passiamo allo sport con una notizia di baseball. L'Italia ha superato in rimonta la Gran Bretagna, è iniziato così alla grande il torneo europeo Under 15 in svolgimento a Trieste, nel campo di Prosecco. Gli azzurri hanno infatti sofferto nelle prime riprese i britannici perdendo per 3-0, però tra il quinto e il sesto inning i giovani allenati dal manager Mazzanti prima hanno raggiunto il pareggio e poi hanno raggiunto l'allungo decisivo imponendosi con il risultato finale di 4-3. Oggi in programma la seconda sfida del girone contro l'Ungheria alle 17, sempre sul campo di Prosecco. E alle 12.54 minuti si chiude qui questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Bearz, che vi parla. Collaborazione tecnica di Caterina Cablelli, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Prossimo appuntamento con il GR alle 15. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.